Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La mole di studio di un intero corso universitario in soli 2 mesi e mezzo fu una parentesi irreale. Mi svegliai solo quel 31 di maggio alle 16:30, appena uscito dal Ministero della Giustizia. Avevo realizzato un sogno. Ciao, sono Roberto, ho 33 anni, vivo nel Triveneto, sono un papà e nel tempo libero faccio il magistrato. Prima di raccontare la storia di Roberto, che è di fatto il primo magistrato che abbiamo al telefono, che di cui ci ha raccontato la propria storia, ci ha inviato il suo racconto a voi siete qui @radio24.it. Prima di attaccare, dicevo, con la storia di Roberto, vi ricordo che oggi siamo in studio, come al solito, in via Mentorosa 91, ma lunedì siamo in diretta dal vivo dal Pirelli Flagship Store di Corso Venezia numero 1 a Milano. Quindi se passate da quelle parti, siamo proprio in centro, in centrissima Milano, Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Piazza San Babila, Corso Venezia. Siamo lì alle 16 in diretta. Per partecipare potete passare da lì, entrare, ma per farlo basta che compiliate il form che c'è sul nostro sito radio24.it, alla pagina di Voi siete qui, e c'è scritto Pirelli, cliccate, inserite i vostri dati. Ci vediamo alle 16, raccontiamo una storia di calcio, di pallone, e insomma ci si vede, ci si sta un po' insieme, una sorta di aperitivo prima del live finale di fine stagione, che sarà come al solito a fine giugno, ma alle 9 di sera e qui dalla sede di Radio 24. Sono le 16:10 minuti in punto. Buongiorno a tutti, è un bel venerdì, è il 9 di maggio del 2013. Tutto fa, insomma, percepire che la primavera sia ormai esplosa e che si vada verso quella stagione che ti fa venire voglia solo di andiamo a dormire, più o meno quello che succede a me e Bonini verso aprile, che comincia a dire però con questo caldino. Invece no, siamo qui a raccontare la storia di Roberto, che non ha avuto tempo di dormire a maggio dell'anno scorso, perché era esattamente un anno fa quando passava il concorso pubblico, forse per definizione il concorso pubblico più importante, quello di magistrato. 349-238-6666, ma anche Voi siete qui Radio 24 sul profilo Facebook o sul profilo Twitter, Voi siete qui R24. Oggi raccontiamo di tutti quei concorsi pubblici o anche esami di Stato che avete fatto per diventare avvocati, per diventare architetti, per diventare notai, tutte quelle robe che c'entrano con dover passare degli esami a livello pubblico. C'è qualcuno che deve dire: ok, tu sei quello, tu verrà il timbro. Certo, l'esame per entrare nell'ordine dei giornalisti. Come è andato? Che cosa avete fatto? Quante domande vi hanno fatto? Come ve l'eravate preparato? Vi è andata proprio una botta di incredibile. 349-238-6666, oppure invece non ce l'avete fatta e avete riprovato. Sempre 349-238-6666. Immaginate invece uno che ha il sogno da una vita di fare il magistrato e alla fine ce la fa. Era il 1999. Mi ero appena diplomato in maniera non esattamente brillante nel liceo classico della mia città. Si apriva in quel momento la crisi di governo della mia vita. A quale facoltà iscrivermi? La mia carriera scolastica non era stata caratterizzata da particolari picchi. Ero il classico studente che in sede di colloquio, dopo il primo quadrimestre, veniva definito in maniera un po' democristiana dai professori un ragazzo sveglio ma che non si applica. Classica frase utilizzata per non demoralizzare i genitori, ma che sotto sotto lanciava un messaggio ben preciso, che era: signora, guardi, lo studio non è tutto, anche un lavoro dopo il diploma potrebbe essere una soluzione accettabile per suo figlio. Ovviamente l'idea di interrompere gli studi a casa mia non era minimamente contemplata. Ecco quindi che a mio padre viene un'idea. Invece di perdere tempo con i soliti viaggi di maturità che non mi meritavo, mi spedisce a lavorare in fabbrica all'estero per 1 mese e mezzo. Operaio di una catena di montaggio di una grossa azienda che produceva caldaie. La mia famiglia era una famiglia di laureati, penso che mia madre è medico, appunto, mio padre lavorava appunto in banca, promotore finanziario, e diciamo che da sempre hanno sempre voluto che seguissi una carriera di un certo tipo, e quindi hanno sempre puntato affinché io studiassi, e diciamo che l'obiettivo primario non era certo quello di fermarmi alla quinta superiore. L'esperienza all'inizio mi affascinò, ma nel giro di un paio di settimane di turni alle 6 del mattino mi resi conto che dovevo dare una svolta alla mia vita. Al 30 agosto di quell'estate decisi di iscrivermi a giurisprudenza. Fino all'ultimo rimasi in un limbo tra legge ed economia, ma alla fine, in maniera un po' casuale, decisi che il diritto sarebbe stato il pane della mia vita. Va bene giurisprudenza, pensai, ma devo fare il magistrato. Come tutti i ragazzi nati nei primi anni Ottanta, avevo ancora negli occhi i roghi di Capaci e di Via D'Amelio, tragedie indelebili di quegli anni 90 che hanno spinto molti di quei ragazzi a tentare la strada del concorso in magistratura. Dentro di me sapevo bene che era più che un'utopia, un po' come quando a 10 anni ero fermamente convinto di volere fare l'astronauta, pur consapevole che le probabilità a livello statistico erano veramente risibili. In tutta onestà, dentro di me sapevo che sarebbe già stato qualcosa riuscire a laurearsi in tempi decenti. Ricordo ancora mio padre che una sera di quel settembre, nel 99, mi chiamò in studio per mostrarmi lo schermo del PC con un bel foglio Excel. «Ecco», disse, «questi sono gli appelli d'esame che avrai nei prossimi anni. Ti concedo di bruciartene 2. Tempo stimato per laurearti, giugno 2004». Con un pizzico di fortuna sgarrai di pochissimo, laureato nell'ottobre del 2004, con un voto onesto, non il solito 110, ma un suo anagramma, 101. Gli anni dell'università passarono più lisci del previsto. Incredibilmente trovai il tempo di preparare gli esami e di coltivare il mio secondo grande hobby, la musica elettronica. Invece del solito lavoro in pizzeria, nei weekend, avevo portato avanti la mia attività di DJ a tempo più o meno perso, nei locali e negli eventi dei circuiti universitari della mia città. In molti a quei tempi mi conoscevano più per le doti alla console che per quelle universitarie. Ancora oggi, nonostante abbia archiviato la mia attività collaterale da qualche anno, in molti mi ricordano in quelle vesti. Ottenuta la non scontata laurea, rispolverai il mio sogno di diventare magistrato. Il caso volle purtroppo che in quegli anni, dal 2004 al 2008, non uscirono bandi. Mi ritrovai quindi costretto a seguire la solita trafila della pratica forense, esperienza che nel mio caso si rivelò molto più positiva del previsto grazie ad un dominus, anche lui con il sogno nel cassetto ormai abbandonato, di diventare magistrato, che mi formò veramente. Preso il prestigioso quanto inutile, almeno per me, titolo di avvocato, nel novembre del 2007, quando dovevo ancora compiere 27 anni, decisi che la mia esperienza di avvocato terminava lì. Mi licenziai dallo studio in cui ero, rinunciai ad uno stipendio, cosa non scontata per la tanto bastonata categoria dei praticanti. Decisi di mettermi a preparare il concorso. A breve, nel 2008, sarebbe uscito un nuovo bando e l'esperienza fu traumatica. Trovarsi disoccupato, seppure volontariamente, e con un concorso così imponente da affrontare non contribuì a darmi serenità. Il concorso, noto ahimè alle cronache del 2008 in fiera a Milano, fu il mio battesimo del fuoco, fu un bagno di sangue. Non consegnai. Tornai a casa con la coda tra le gambe, consapevole che la mia preparazione era lontana anni luce da quella necessaria. Il destino volle che in quei mesi riuscii a vincere in maniera fortunosa un altro concorso pubblico come funzionario e perlomeno la tranquillità economica tornò. Tra aspettative e ferie bruciate, tentai una seconda carta nel 2010. Obiettivo quasi raggiunto, 2 idoneità sulle 3 necessarie. La batosta degli esiti fu forte, ma fu proprio in quell'occasione che mi resi conto che non dovevo mollare. Quella del magistrato era, secondo me, la professione forse all'epoca più affascinante, perché appunto sono cresciuto in un periodo in cui quella figura era una figura particolarmente anche forse rischiosa, presa di mira, quindi in un contesto insomma di ricerca della giustizia e della verità, sembrava forse all'epoca, quindi quando ero molto giovane, quindi particolarmente idealista, fosse insomma il primo fine da perseguire. Tentai nuovamente nel 2011, non consegnai. E poi, finalmente, in quei 3 giorni, quelli del 23, 24 e 25 maggio del 2012, casualmente o forse no, il ventennale della strage di Capaci, uscirono delle tracce magiche. Consegnai con uno strano brivido, consapevole che la mia vita poteva cambiare. Un ottimismo non razionale ma inspiegabilmente presente. Ricordo ancora il mio ritorno adrenalinico in auto quella sera sulla A1, da solo, sull'Appennino, con lo stereo a palla al suono di un CD di musica techno hardcore comprato in autogrill per l'occasione. Sentivo che era la volta buona. Tornato a casa iniziai ad aspettare gli esiti. Ci sarebbero voluti 8 mesi. In attesa decisi che non era il caso di lasciare in stand-by la mia vita. Mi sposai. Lo feci con chi in questi anni aveva comunque deciso di sopportare tutto questo e cercammo casa. Fino a quell'incredibile 8 marzo, che rimarrà tatuato indelebile nella mia memoria. 14, 12, 14. Questi erano i numeri che comparvero sulla schermata del mio iPhone quando inserii i miei dati personali necessari per vedere gli esiti. Avevo superato gli iscritti. Da lì in poi venni trascinato per inerzia dall'adrenalina. La sorte della mia residenza anagrafica mi portò ad essere tra i primi ad affrontare l'orale nel maggio del 2013. La mole di studio di un intero corso universitario in soli 2 mesi e mezzo. Fu una parentesi irreale, onirica, della mia vita. Mi svegliai solo quel 31 maggio alle 16:30, appena uscito dal Ministero della Giustizia. Avevo realizzato un sogno. Il sogno è durato solo un mese, però, fino a quando mia moglie mi comunicò che di lì a poco sarei diventato babbo. Solo in quel momento mi resi conto che il vero sogno lo avevo realizzato in quel preciso istante, perché alla fine quella del magistrato non sarebbe stata altro che un'attività collaterale, un po' come quella del DJ ai tempi dell'università. Effettivamente anche per me, che non ho studiato giurisprudenza e tantomeno mai pensato di fare il magistrato, quella del magistrato è una professione che ha sempre avuto un'aura particolare, forse perché, come dice Roberto, anch'io sono cresciuto in quell'epoca, nell'epoca della strage di Capaci e di Via D'Amelio, e quindi, visto che, come spesso capita, preferiamo parlarne con qualcuno che ne sa di più, lo facciamo direttamente con lui, che ci ha mandato anche la storia. Pronto, Roberto? Pronto, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Benissimo, dai, tranquillo. Senti, so che sei di fretta, che sei in stazione perché devi prendere un treno, quindi, e che è già fermo lì di fianco a te. Quindi che mi aspetta, esatto. Non voglio fartelo perdere. Senti, sei di ritorno dal lavoro, immagino. Da lavoro, esatto, ho appena finito. Mi racconti esattamente che cosa, insomma, l'iter per la magistratura più o meno ce l'hai raccontato, no? Questi esami interminabili, complicatissimi, soprattutto queste sessioni di studio. Questa sessione di studio di cui racconti che sono 2 mesi, giusto? 2 mesi e mezzo. Sì, 2 mesi e mezzo in realtà, in un contesto di tanti anni in cui ci si lavora dietro, perché fossero solo 2 mesi e mezzo sarebbe un concorso abbordabile. Chiaro. Diciamo che effettivamente in realtà bisogna investirci anni e soprattutto la testa, perché è un concorso che implica una serie di scelte, ma anche di vita particolarmente impegnative, insomma. Beh, mi dici com'è proprio il concorso in sé? Cioè, cosa c'è? Una parte scritta, ovviamente? Esatto, c'è un concorso, diciamo che la parte principale, questa parte scritta, dove sono 3 scritti in 3 materie macro, che sono appunto l'amministrativo, il penale e il civile, sì. E poi da lì, superato lo scritto, che è di fatto poi lo scoglio più difficile, e c'è una fase orale dove vengono portate circa 17 materie in un contesto solo, quindi un orale che dura 2 ore sostanzialmente davanti a una commissione, particolarmente agguerrita, no? Perché in realtà ti valutano per quello che sei. Sono brave persone, insomma. Ma sì, sono tutte brave persone squisite. Però, insomma, che vogliono capire se ne sai oppure no. Questa soprattutto se sei in grado di fare questo tipo di lavoro, insomma. Scusami, 17 materie, mi fai un esempio di 5-6 materie? Ma potremmo partire proprio in elenco cronologico. Vai. Si parte da civile, diritto romano, procedura civile, penale, procedura penale, amministrativo, tributario, costituzionale, commerciale, fallimentare, lavoro, previdenziale, un internazionale pubblico, privato, comunitario, per finire poi con informatica giuridica e ordinamento giudiziario, che è un po', insomma, quello che è, come composta, come si forma la magistratura, insomma. Ma Roberto, ti ricordi tipo una delle domande che ti hanno fatto? Guarda, una delle domande che mi hanno fatto, sì, mi ricordo che tra le varie domande di diritto civile mi ha fatto particolarmente impressione quella sul sistema tavolare, che è una cosa è una cosa complicatissima che praticamente riguarda il sistema delle trascrizioni in certe province autonome d'Italia, Bolzano, Trento per intenderci, che è un sistema di conservatoria molto diverso da quello che c'è in tutto il resto d'Italia, perché ha una origine austro-ungarica che si sono trascinati anche poi nel diritto successivo, insomma. Senti, non ti sei, è passato un anno, giusto? Era maggio dell'anno scorso? Maggio dell'anno scorso, esatto, sì. Ad oggi non ti sei mai pentito? Cioè sei felicissimo di questa scelta, vuoi continuare? Assolutamente, beh, è una scelta di una vita e per me insomma è stato insomma, il sogno di una vita che ho finalmente realizzato e insomma, è stata era quello che volevo fare in fondo, in fin dei conti. Adesso mi dici, me lo dicevi prima fuori onde, me la ripeti esattamente la tua mansione, che cos'è in questo momento? Ma guarda, attualmente sono quello che una volta più romanticamente venivano chiamati uditori giudiziari. Okay. Adesso hanno questo acronimo che si chiamano MOT, che sono magistrati ordinari in tirocinio, che di fatto insomma, la funzione è quella di assistere, di stare a fianco a un giudice più esperto, evidentemente, che ti introduce, ti spiega, insomma, ti insegna il mestiere, che è poi quello che farò per i prossimi 18 mesi, insomma. Perché, esatto, dura ancora 18 mesi. 18 mesi, esatto, sì. Dopodiché c'è un altro concorso? No, dopodiché no, semplicemente c'è questa giornata topica in cui vengono pubblicate delle sedi, poi in base alla graduatoria ognuno si presenta e sceglie in base a quello che è rimasto. Ah, quindi semplicemente ci sarà tipo, che so io, L'Aquila, Torino, Foggia, Catanzaro. Esattamente, in base alla graduatoria in cui sei, quello che è rimasto puoi sceglierlo, insomma, quindi dici pubblico ministero, che ne so, Pordenone e vado lì. E la graduatoria, scusami, la graduatoria com'è fissata? Ma la graduatoria è fissata, diciamo, a due step, uno per così dire di merito, che è quello che segue appunto i risultati del concorso scritto e orale, poi dopo viene riaggiornata sulla base di cariche familiari, le esigenze comunque di un certo tipo, che vengono considerate come punteggio ulteriore, okay. Che poi giustamente si favorisce chi ha figli, si favorisce chi ha una serie di problematiche, insomma, è fatta anche funzionalmente alle esigenze di ciascuno. Senti, in questo primo anno di uditore, diciamo così, ti sei già fatto la bocca sulle cose che ti piacciono di più e quelle che ti piacciono di meno di questo mestiere? Beh, oddio, il mestiere è particolarmente impegnativo, soprattutto mi sono reso conto solo sul campo che quello di decidere su comunque il destino degli altri è una scelta veramente impegnativa che giustamente non va presa assolutamente alla leggera. Quindi diciamo che questa è la cosa più complessa insomma del lavoro a mio avviso. E comunque poi è tanto vario, ci sono tante possibilità, c'è la possibilità di andare in procura, la possibilità di fare il giudice civile, del lavoro, il giudice penale. Quindi in realtà le sfaccettature che poi andrò a vedere nei prossimi 18 mesi sono talmente tante che poi solo dopo mi farò un'idea su cosa fare alla fine, insomma. E invece, scusami, ma sono molto molto curioso da questa cosa, poi ti lascio andare che devi partire, ma invece da un punto di vista economico un magistrato che entra, che inizia, più o meno quanto guadagna, grosso modo? Non vorrei attirarmi le ire di tutti i colleghi, comunque diciamo che da un parametro di raffronto ecco, piglia sicuramente più di un funzionario medio del pubblico impiego, ecco, quindi sicuramente più. Tipo tipo che so io, un dirigente di una piccola azienda? Ma ci avviciniamo, non così tanto da tirocinante, però insomma per certi aspetti ci si avvicina, ecco. Ok, senti, invece la vita privata riesce ad avercela? Riesce ad avere una fidanzata? Riesce ad avere degli amici? Ma adesso la vita privata sì, riesco ad avercela perché comunque sono ancora vicino a casa e poi comunque faccio anche modo di costruirmela perché poi giustamente, come avrei visto anche nella mia storia, la priorità è cambiata proprio in corso d'opera. Chiaro, sono partito chiaro. Da magistrato, adesso so che il mio ruolo è quello di papà e di marito, insomma, quindi per me questa è la prevalenza su tutto. Poi è chiaro che il lavoro devo farlo bene, devo farlo al meglio, ma non dimenticando appunto di chi mi è stato a fianco fino adesso. Roberto, sento la voce dall'altoparlante, quindi ti lascio tornare a casa dalla tua famiglia. Ti ringrazio e mi raccomando, a questo punto, visto che è la prima volta che parlo al telefono con un magistrato, un futuro magistrato, hai una grossa responsabilità sulla vita di tutti noi. Trattala bene. Certo, ci mancherebbe. Grazie mille. Ciao Roberto. Ciao, ciao, ciao. Sono le 16:29, abbiamo finito anche oggi. Io ringrazio quindi Gianmarco Ferronato al mixer, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Noi ci vediamo e ci sentiamo, ma soprattutto ci vediamo lunedì alle 16 in diretta dalla Pirelli di Milano, Corso Venezia numero 1. Grazie soprattutto a Roberto, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Luigi, viva Monza. La storia di lunedì e la mia parla di anticipo nel calcio. Questa è la mia storia e io sono qui.